Iniziamo intanto ringraziando Michele Maino di essere con noi stasera a presentare il suo libro La foresta interiore. E siamo pochi, ma è una situazione intima in cui quindi credo, ci auguriamo, penso entrambi, che si possa poi, oltre all'introduzione del libro, aprire un dialogo e quindi ascoltare eventuali domande, approfondendole in un clima, direi, adatto. E quindi, oltre a ringraziarti ancora Michele, posso soltanto, prima di lasciarti la parola, dire che per noi è bello avere qui la presentazione di un testo che parla di, comunque, di natura, di piante, in un modo poi particolare che ci andrei a spiegare, un po' lontano da noi, da un punto di vista proprio antropologico e umano, quindi Sud America. Però è un tema a cui noi siamo molto legati, uno dei temi fondanti di questo luogo. Forse non è un caso che proprio oggi pomeriggio abbiamo ospitato un programma radio che si chiama Insana Pianta e che parla appunto delle varie particolarità di alcune piante e degli usi che le piante possono avere, perché non sono solo, credo, una parte estetica del mondo in cui viviamo, ma sono una parte fondante, vivente, tanto quanto lo siamo noi, se non di più. Quindi grazie ancora e ti lascio la parola. Io ringrazio te, grazie Giacomo. Allora, intanto grazie a tutti per essere venuti ad ascoltare quello che avevo da dirvi. Allora, io mi chiamo Michele Maino e ho fatto parecchie cose nella mia vita e ho scritto questo libro che racconta di quello che ho fatto negli ultimi 7 anni. In realtà è il racconto, il reportage di un viaggio che ho fatto, ma ovviamente riporta l'esperienza che ho accumulato in tutti i viaggi che ho fatto in Perù, mosso dal desiderio di scoprire, di studiare, di sperimentare proprio sulla mia pelle che cosa sono le piante maestre, no? Io sono convinto che quasi tutti sappiate che cos'è l'ayahuasca. L'ayahuasca è soltanto un piccolo aspetto di questo universo, un aspetto che per dei motivi politici e legali in questo momento in Italia è difficile esperire, perché come sapete a marzo l'ayahuasca è stata inserita nella tabella 1 delle sostanze proibite e quindi chi faceva questo di lavoro non lo può più fare, o perlomeno non lo può più fare in modo rilassato, ma lo deve fare in modo segreto. Non io. Allora, il libro è articolato come un diario di viaggio che racconta le cose che vedete nelle fotografie qui dietro, che sono una miscellanea di fotografie di vario tipo che ho scattato nella foresta e in generale in Perù. Allora, una parte di argomenti sono già venuti fuori con una bellissima conversazione con Francesco poco fa e in effetti mi premeva proprio sottolineare questo aspetto di cui ha parlato Giacomo, no? Le piante non hanno soltanto un aspetto estetico, no? Beh, assolutamente, le piante sono assolutamente fondamentali per la nostra vita, no? L'ossigeno che respiriamo deriva dalle piante, i materiali con i quali ci vestiamo, il cibo che mangiamo, tutto, ogni cosa viene dalle piante, no? Che nel nostro tipo di società consumistica noi trattiamo come un orpello, come qualcosa che, boh, sì, c'è fuori Milano, nei campi, no? Invece è una cosa fondamentale, prendersi cura delle piante, capire che cosa sono, come vivono, come ci possono aiutare. La loro intelligenza, prima si citava Mancuso, no? Che ha introdotto il concetto di intelligenza delle piante. Non solo, Mancuso azzarda anche un'ipotesi, lui la dice un po' ridendo, ma non c'è nulla da ridere. E se fossero state le piante che hanno modificato gli esseri mammiferi per far venire fuori l'uomo, in modo che potessimo curarle, ammaestrarle, ibridarle, portarle in posti dove loro non riuscivano ad andare. E non è il solo che azzarda diciamo, questo gioco. Comunque, quello che vi voglio dire è che le piante, al di là del fatto che se non esistessero saremmo morti, non esisteremmo, hanno anche un aspetto sottile, un aspetto spirituale. E qua io vi chiedo di fare questo piccolo passo, no? Di dire, vabbè, io sono un essere umano, vivo a Milano nel 2022, utilizzo parzialmente la scienza per spiegare il senso della mia vita, il senso delle cose, e tutto quello che è magia o cose strane, eccetera, eccetera, non posso confrontarmici perché non ho strumenti per capire se mi sto ingannando, se sto avendo un'allucinazione, se c'è il mago Telma davanti a me che mi prende in giro. Ed è assolutamente vero, in effetti ci sono anche i maghi Telma in giro. Tuttavia un mondo spirituale esiste, esiste. Io l'ho visto, io sono stato un ragazzino, sono stato uno dei più giovani iscritti alla Società Italiana di Scienze Naturali e mi sono rifugiato in una visione scientifica e precisa di tutto, perché mi sembrava che quello che veniva offerto dalla parte spirituale era un po' carentuccio, quantomeno qua, no? E in effetti così è, no? Noi viviamo una religiosità che è stata privata della sua vividezza, no? I riti che compiamo nelle chiese sono vuoti, sono mimetici, si mima qualche cosa che non ha più senso, non avviene più nessun tipo di trasformazione alchemica durante una messa, no? E questa cosa ovviamente le persone la percepiscono, infatti le persone non vanno in chiesa perché non è interessante, sono magari attratte perché è l'unica cosa che viene offerta, no? A questo scopo in effetti molti si rivolgono ad altri tipi di spiritualità, adesso tutti si interessano della Kabbalah, si interessano della religiosità orientale, che sono comunque dei percorsi che bisogna conoscere bene per poterne trarre un beneficio. Nel mio caso io ho incontrato la via delle piante, no? Che in Perù, comunque in generale in Amazzonia, in Sud America, anche in Mesoamerica, è quasi come fosse una forma di yoga, una forma di yoga, nel senso che lo scopo di questa pratica è comunque quello di liberarsi dai pesi del passato, dal portato transpersonale che ci arriva dalla famiglia, dalla società, dai pesi e dalle memorie che sono incistate nel nostro corpo per via dell'alimentazione che abbiamo praticato, che era sbagliata, per via di tutti i condizionamenti, i bias cognitivi che abbiamo accumulato nei nostri percorsi formativi, informativi direi. E quindi sì, si va là e si vomita, per lo più. E la ayahuasca è chiamata anche la purga, abuelita, mamacita, la madre. È considerata un po' la regina di tutte le piante, perché a differenza di altre piante che sono considerate maestre, cioè che hanno qualche cosa da insegnarci, questa è una pianta psicoattiva, ok? Quindi noi lo vediamo come psicoattività. In realtà è in grado di assottigliare quella membrana che divide il mondo della materia dal mondo spirituale. Noi siamo tarati per vedere uno spettro della realtà che è un piccolo spettro. Infatti, questo fa parte di questo spettro, questo, poi forse qualcuno percepisce i sentimenti, forse qualcun altro i pensieri, ma non siamo educati a vedere altre cose, no? Cioè, non possiamo immaginare che questo bicchiere ha uno spirito. Ok, se non piace la parola spirito e siamo dei nerd, possiamo dire programma o campo morfogenetico, comunque sistema complesso e reticolo di informazioni che ha portato questo oggetto a essere questo oggetto, ne definisce la funzione e il destino in qualche maniera. Quindi sì, la ayahuasca fa vomitare. E come fa a vomitare? Beh, innanzitutto bevendo ayahuasca, assottigliandosi gli strati che compongono, che dividono i vari corpi dei quali noi siamo fabbricati, c'è una fuga di materiale, per esempio dall'inconscio, da quello che Jung chiama l'inconscio, e che può essere vomitato fuori, proprio fisicamente. Ci sono psichiatri, non so, forse conoscete Naranjo, che curano le dipendenze con l'ayahuasca, pur non essendo un curandero o uno sciamano. Quindi sì, c'è una valenza di questa medicina anche bevendola così, però c'è anche un pericolo naturalmente. E questo perché? Perché il sistema di cura con l'ayahuasca funziona in un modo che non è tanto chiaro a chi invece qui da noi lo pratica. O almeno nella mia esperienza, io ho visto tanta gente che torna dal Sud America dicendo: ah, ho incontrato l'ayahuasca, ho toccato la mano di Gesù. È vero, ti può mandarti in stati di estasi, può farti vedere delle visioni che a volte sono più un fardello che un'illuminazione, perché poi stai a rimuginarci sopra per mesi, esattamente come fai coi sogni, cioè non hai strumenti per capire se sei stato allucinato o se hai veramente visto il divino, oppure no? Perché nel mondo spirituale ci sono anche delle entità, ma adesso mi prenderete in giro, ma insomma malvagie, no? Come le persone. Tu vai per la strada, c'è una persona che ti sorride e capisci che ti sta sorridendo perché vuole offrirti il suo affetto, il suo amore, e molto più spesso, ahimè, ci sono delle persone che ti sorridono perché ti vogliono fregare. Nel mondo spirituale è identico, è esattamente la stessa cosa, solo che a differenza del mondo materiale abbiamo ancora meno strumenti per rendercene conto. Ok? Per esempio, dire che l'invidia di qualcuno ti fa ammalare, uno ti ride in faccia, no? E invece è esattamente come avviene, no? Cioè, in qualche maniera lo sguardo malevolo di qualcuno è in grado di colpire e distruggere una parte dell'ordito sottile del quale tu sei costruito, ok? Creando un varco sul quale poi vengono dei parassiti a mangiare, esattamente come uno che ti pugnala e poi arrivano i parassiti a mangiare il sangue e la carne putrefatta della ferita. Quindi in effetti quando io torno dall'Amazzonia, dove passo molti mesi ogni anno, ho proprio questa triste consapevolezza, no? Di vedere tante persone che sono come dei bambini, no? Sono indifese di fronte a questa cosa, tutt'al più ridono di una cosa del genere, ma non si rendono conto dell'importanza di questo. Se invece andiamo in giro per il mondo ci rendiamo conto che, a parte a Milano o a Parigi e in qualche altra città, in quasi tutte le campagne che non sono state gentrificate o insomma antropizzate in maniera così sostenuta, intorno alla casa ci sono piante di potere. Noi abbiamo la salvia, la ruta, giù là hanno la patichina negra e il pignon colorado. Ovunque in India c'hanno l'erba kusha, c'hanno l'albero di sal, no? Sono dei grandi protettori della casa. Protettori della salute, eccetera, eccetera, mentre noi invece abbiamo la televisione. Vabbè, sto scherzando, scusate. E quindi le piante hanno uno spirito, chiamiamolo spirito, passatemi questa parola, e si può entrare in contatto con questo spirito, in effetti, praticando una sorta di yoga delle piante che loro chiamano dieta. Dieta è una parola, vabbè, ovviamente latina, passata attraverso lo spagnolo, e quindi il verbo è dietar la planta. Significa mettere se stessi in uno stato di austerità, con delle restrizioni alimentari, comportamentali, sociali, assumendo una determinata pianta. Ogni tribù ha un suo novero di piante che chiama maestre, e queste piante piano piano, nel corso di queste diete che durano da settimane a mesi o anni, prima puliscono, limpiano, come si usa dire, limpiar. Dopodiché, quando tu sei sufficientemente pulito, cominciano a trasfondere conoscenza, cioè in un modo che è simile a quello descritto dai nostri mistici, anche cristiani o anche musulmani. Per esempio, mi viene sempre questa associazione, nel Corano c'è una sura che spiega come il Corano fu rivelato a Muhammad. E venne l'arcangelo Gabriele e mi mostrò un mantello sul quale erano scritte delle parole, ma io non riuscii a leggere. Allora egli mi strinse 3 volte in modo che io credetti di morire, e poi potei leggere. E quindi questo è stato il Tanzil al Corano, cioè la discesa del Corano, metafora per la conoscenza, il Dharma, Sanatana Dharma, il Dharma universale, la filosofia perenne, cioè come funzionano le cose, che sono delle cose veramente semplici. Non dobbiamo pensare, cioè, che cosa deve entrare o uscire dal nostro corpo: parole, cibo, emozioni, e a come vivere senza immaginarsi chissà che. E questo lo fanno anche le piante. Lo fanno anche le piante. Ogni pianta ha un'area del corpo, della coscienza, della psiche, che può risanare, e ogni pianta ha dei doni da dare a chi dieta, esattamente come lo yogi che va a praticare la sua sadhana nella foresta per un sacco di anni, o il tantrica, o l'agori, o chiunque faccia un cammino spirituale, alla fine può ottenere delle siddhi, dei poteri. Nel sistema indiano sono visti come qualcosa di un po' ambiguo, tipo, ah sì sì, io faccio lo yoga perché voglio le siddhi, e il maestro ti dice, no, calmino, le siddhi sono un problema, no? E, mentre invece nel caso delle piante ti possono essere dati dei poteri, nella fattispecie la chiaroveggenza, la chiarudienza, la bielocazione, anche il volare. E il volare in astrale, naturalmente, non il volare sbattendo le braccia, ma soprattutto per il curandero la capacità di vedere che cosa è rotto, oscuro, spaccato, e che è da rimettere a posto, rimagliare, ripulire nei corpi delle persone, nel corpo mentale, emozionale, fisico, e per chi ci crede in quello causale / karmico. No, cioè l'insieme delle cause che fanno sì che ora noi viviamo una vita di questo tipo, ma per questo bisogna fare un passetto ancora di più. Così. Quindi, insomma, ste diete, cosa sono ste diete? Le diete, mangi pochissime cose, tipo riso, quinoa, qualche uccello arrostito, qualche pesce arrostito, patate, avocado e poco altro, lenticchie. E in pratica stai lontano da tutto ciò che può avere una personalità spirituale più forte, o comunque che può entrare in conflitto con quella della pianta che stai dietando. Nello stesso modo non pratichi il sesso, non mangi carne di mammiferi, non parli al telefono, non hai una vita mondana, cioè è proprio un ritiro come un ritiro di meditazione, se ci pensiamo, però assumendo queste piante, prima una, poi l'altra, e così. E ogni curandero che diventa un curandero è specializzato in determinate piante. Il modo che ha il curandero di presentarsi è, oh, tipo, io soy Maristella, trabajo con esta planta desde 25 años. Quindi il suo pedigree non è una laurea, ma è il numero di anni che ha dietato quella pianta. Durante una cerimonia Maristella ti canta e ti mette a posto le ossa, se è una maestra huesera, oppure ti mette a posto, non so, l'intestino, gli organi, la mente, le emozioni, i problemi femminili, qualunque tipo di cosa, a seconda del bacino dal quale lei ha attinto il potere. Ecco, beh, bene o male la materia ve l'ho lanciata. Adesso spero che vogliate dire qualche cosa voi. Ma no, una curiosità che mi è subito così salita. Insomma, cosa ti ha portato a livello anche proprio di vita personale? Quindi non so se è una cosa che puoi condividere, però... cosa ti ha portato ad avvicinarti a tutto questo mondo, e quali sono stati gli ostacoli o le cose andate anche con più difficoltà? Okay, sì. Grazie. E vabbè, quello che mi ha portato, lo devo ammettere, è proprio stata una curiosità di tipo psiconautico. Cioè, io ero interessato all'utilizzo di sostanze per vedere che cosa facevano alla mia coscienza, no? Ma esattamente questo è stato completamente ribaltato. Cioè, mi sono reso conto che non avevo a che fare con una sostanza, cioè l'ayahuasca non è una sostanza, contiene degli alcaloidi, la dimetiltriptammina e altre. Anzi, in realtà la dimetiltriptamina viene fornita da una pianta partner, l'ayahuasca non la contiene, la contengono altre piante con le quali l'ayahuasca viene cotta per dare vita a questa concozione che poi noi beviamo. E che cosa mi ha portato? Vabbè, un vuoto che attanaglia le persone verso i 30 anni, per chi è fortunato un po' prima, per chi è sfortunato un po' dopo. E quindi sì, una ricerca di un senso più profondo delle cose, no? Non che io prima fossi tipo, insomma, berlusconiano, cocainomane, per dire, no? Certo, ero comunque incline a un certo tipo di speculazione, però non bastava più. Lo mimavo un interesse, andavo ai convegni, facevo dei viaggi, ma non c'era niente di concreto. Non mi fidavo un po' di nessuno, mi sembravano tutti dei santoni. Poi io facevo il giornalista, per cui scrivevo anche di cose tremende che succedono nelle sette, in queste cose, quindi orrore. Quindi ecco, infatti lo sciamanesimo, perlomeno lo sciamanesimo vegetalista dell'Amazzonia, è molto concreto. Cioè tu mangi la pianta, vomiti e poi stai bene. È concretissimo, non è devi studiare tutti i 95 nomi di Vishnu e poi, cioè, è concreto anche quello, perché conosco delle persone che hanno percorso questa via, però insomma è una cosa che finché non arrivi a fare proprio dei riti teurgici, che sono, diciamo, la controparte induista di questo lavoro con le piante. Qui si fa una sorta di alchimia interna vegetale, mentre con la teurgia tu foggi la materia e disponi il tuo corpo affinché il flusso divino ti percorra, no? Però lo devi fare, non è che puoi andare a pappagallo, andare da chi cazzo è, chiunque, che ti dice adesso tu diventi Sarasvati. Quindi sì, è stato questo. E i cambiamenti nella mia vita sono stati veramente importanti. Innanzitutto, chiaramente l'emersione di un nuovo mondo, la soluzione di una serie di conflitti. Non è stato un percorso facile, ovviamente. Ogni parte del sé che si sfoglia come un petalo di fiore che cade comporta un lutto, qualcosa di brutto, che la mente legge come brutto al momento, no? Ed è esattamente quel piccolo confine che c'è fra la rinuncia e la liberazione, no? La rinuncia è qualcosa che tu senti che ti viene messo addosso, schiacciato addosso, e quindi soffri perché non c'è più una cosa, ma poi dopo sei libero da questa cosa, e quando te ne rendi conto, cioè, tutto un universo di leggerezza si apre, no? E tu cammini nella vita con altri piedi, no? Vedi la vita con altri occhi. Anche il modo di perseguire i desideri, no? Mi ha permesso questo lavoro molto profondo, che vabbè, ho fuso anche con altre tecniche di meditazione, di indagare la natura dei desideri. Il desiderio, noi siamo cresciuti con l'idea che freudiana, che il desiderio è il sale della vita, cioè quello che ti manda avanti, che ti fa arrivare al domani, desiderando il domani. È una solenne cazzata, invece, scusate il francesismo. E il desiderio è per lo più un inquinamento, per lo più, no? E va ricondotto assolutamente alla sua dimensione naturale. E va vissuto come si vive il tempo atmosferico. Oggi piove, domani c'è il sole, oggi desidero, domani no. Se desidero ogni giorno sono malato, chiaramente, no? Ho risposto alla tua domanda. Grazie. Una domanda. Certo. Intanto di parlare con amici che hanno fatto esperienze di stampino della coscienza, e con loro mi confronto e dico, diciamo, non legato solamente alle piante, per inciso. Quando mi confronto dico, sì, cazzo, però la difficoltà è quella poi di portare quella consapevolezza nella vita di tutti i giorni. Cosa che invece credo, secondo le mie informazioni di studi, diciamo, ciò non accade, questa difficoltà non si presenta nel momento in cui tu ti approcci a questo percorso attraverso delle pratiche, delle tecniche più quotidiane, meno diciamo shortcut, come può essere l'esperienza con le piante, ma più legate ad una profondità, ad una disciplina, anche se vogliamo, la meditazione, lo yoga, alta preghiera, anche un'arte, se vogliamo, il disegno, il canto. E quindi mi chiedo tu cosa ne pensassi di questa cosa qua. Allora sì, ti ringrazio, è una domanda molto interessante. Innanzitutto devo un po' arrabbiarmi per la parola shortcut, perché ti assicuro che non è uno shortcut, è un impegno serissimo. Quando sei nella foresta per 7 mesi dietando una pianta tutti gli anni, non è uno shortcut, rispetto ad andare magari a fare un paio di weekend di tantra qualcosa da qualche parte. Però ho capito il senso della domanda. Infatti... Sì, sì, sì, certo. Allora, una seduta di ayahuasca, quello è uno shortcut. Sono d'accordo con te, in effetti, sì. E hai fatto benissimo a fare questa domanda. Allora, sì, è vero. Questo è un tema molto importante dell'utilizzo di ayahuasca presso gli occidentali. Infatti si parla di integrazione. Quando tu, una persona, un babbano, passatemi il termine, fa una cerimonia di ayahuasca, sale ad empire i mondi e poi torna a New York piuttosto che a Osaka e cade come una pera cotta e dice: ma cosa riesco a portarmi di tutte quelle cose magnifiche che ho visto? Ma infatti quasi nulla. Quindi chi fa cerimonie di ayahuasca qui ha cercato di ovviare a questo problema stendendo dei protocolli di integrazione, così chiamano, che possono essere vari tipi di meditazione, delle cose, e che per il mio modo di vedere sono delle cose pateticamente new age e anche ingannevoli in qualche maniera. In effetti vedo che chi usa la ayahuasca come una sostanza, come un modo per passare un weekend un po' diverso, per esplorare, cioè la coscienza c'è, no? E sfugge al percorso della dieta, che è fondante, che è quella disciplina di cui tu lamentavi la mancanza. Quindi sì, l'ayahuasca da sé non ti rende una persona migliore, ma il lavoro con le piante sì. E la dieta quindi la porti avanti anche una volta finito? Assolutamente, assolutamente. Esatto. Per esempio, una cosa che ho cominciato a fare da qualche anno è, utilizzando la medesima tecnologia, dietare delle piante nostrane, perché da noi esistono piante che hanno lo stesso identico valore, cioè non abbiamo magari, diciamo, un corrispettivo dell'ayahuasca, anche se questo non è del tutto vero, ma abbiamo piante di potere, pazzesche, banalmente il rosmarino, il basilico, l'alloro, per non andare su piante molto più complesse a livello di fitocomposizione. Quindi sì, ovviamente questo comporta di isolarsi e vivere una vita diversa. E allora che cosa succede? Allora, o tu cerchi, prendi tutte queste cosine con l'ayahuasca, ci vai, non so, una volta ogni 3-4 anni, poi c'è il giro di amici, vai a fare il cerchio e così, e intanto fai il macellaio. A un certo punto, se tu fai questo percorso seriamente, o cominci a fare il tuo lavoro in modo diverso, cioè questa esperienza ti cambia, quindi tu dici: no, ma io non posso più fare delle cose che facevo prima. No? Beh, adesso ho detto il macellaio per dire, no? Magari uno si... magari non qualsiasi cosa, ci sono delle cose che sono particolarmente, particolarmente non indicate. Cioè, se tu fai lo speculatore e fai un serio percorso con la ayahuasca, non lo puoi più fare, no? Non puoi più fare del male consciamente alle altre persone, no? Ovviamente uccidere un animale o non uccidere un animale è una romanticheria, cioè, mentre per esempio nel mondo orientale, quando vai in circoli di persone che praticano lo yoga eccetera, cioè, oh, noi non usiamo sostanze, noi non facciamo la non violenza, la ahimsa, quindi non uccidiamo eccetera eccetera, sono delle cose interessanti, ma sono delle cose che provengono dalla mente per lo più, cioè le devi portare nel tuo corpo, quindi è il tuo corpo che a un certo punto ti dice non voglio più mangiare la carne, per esempio, no? Ma è diverso, per esempio nella dieta tu devi mangiare gli uccelli perché sono la carne, perché ti tiene, ti abbassa, no? Infatti per esempio io sono stato vegano molti anni e ho dovuto, diciamo, reintegrare, quando sono là soprattutto, il pesce e gli uccelli, perché altrimenti sì, ogni anno vado, sì, sì. Adesso ho la fortuna di lavorare con un maestro svizzero che è ben inserito in un lignaggio antico della tribù dei Kapanawa, perché lavoro con una pianta che è molto molto pericolosa e quindi una sua congenerica, cioè la brugmansia, che sono la riclassificazione ottocentesca delle dature del nuovo mondo, ed è una pianta veramente molto pericolosa, cioè basta un sorsino in più sei morto, no? E soprattutto può succedere che in alcuni episodi tu perda la coscienza, no? Quindi devi essere in un luogo che è sicuro, non in mano a gente che magari ti può rapinare o che ha il dollaro al posto dell'iride. E, ecco, per cui sì, è un po' questo. E in effetti, come dicevo prima a Francesco, il modo di utilizzare la ayahuasca qui da noi, non tutti, perché ci sono delle persone molto serie, per carità, però pensare che tu, perché hai fatto un corso di biotrans energo psicanalisi, possa fare il curandero è ridicolo, no? Perché quello che avviene in una cerimonia è per lo più qualcosa che avviene nel mondo sottile. Quindi è vero che tu vedi la Madonna, piangi, vedi tua mamma, fai pace con le cose del passato, eccetera, eccetera, ma ci sono entità che escono dal tuo corpo e lo sciamano le fa uscire a bastonate con il suo icaro, con il suo canto, che è il canto che è stato rivelato dalla pianta come dono, cioè dono. E poi c'è un altro aspetto più oscuro che possiamo vedere più tardi, no? E quindi come le cose escono, le cose entrano, quindi tu vai a un bel cerchio di pinco pallo ayahuasca e ti contagi spiritualmente, no? Quindi le schifezze che stavano in te sono uscite e il maestro non ha saputo fare nulla e sono andate in lui, in lei, in lui, cioè, quindi questo è un disastro. Quindi potrebbe anche, c'è qualcuno che dice, ah sì, la ayahuasca basta qui da noi perché siete dei coglionazzi, fondamentalmente. Poi c'è un altro aspetto invece, anche nel curanderismo o comunque in quel sistema c'è un lato di luce e un lato oscuro. Ora, nel mondo spirituale non esiste propriamente il bene e il male come siamo abituati moralmente a connotarlo noi, no? Però nel nostro mondo c'è. Quindi il curandero che cosa fa? Libera se stesso, monda se stesso affinché possa riflettere la luce del mondo celeste, più o meno è questo, attraverso l'intermediazione della pianta, che è un aspetto del divino. Il brujo, cioè lo stregone nero, magia bianca, magia nera, marabutto bianco, marabutto nero e così via. Invece che cosa fa? Con un percorso che è sì uno shortcut di tipo mefistofelico, mette le sue mani, pensa di mettere le mani su una qualche entità che si mostra particolarmente servizievole e acquisisce dei poteri magari anche straordinari. Ma il prezzo da pagare è altissimo, no? E quindi non sei più una persona che si sta pulendo come uno specchio riflettente per riflettere, ma utilizzi il potere datoti dal mondo spirituale per mandare avanti la tua agenda personale, per ottenere i tuoi desideri, no? E ovviamente questa cosa ha un prezzo enorme, poi sia per la persona sia per i poveracci che finiscono in questa rete, naturalmente. Però qua siamo molto nel Mago Telma, quindi magari mi fermo. Sì, questa cosa che noi riportiamo un po' tutto alla dimensione morale, no? Vabbè, siamo stati educati così, cioè l'interfaccia religioso nostro è questo si fa, piace a Dio, questo non si fa, non piace a Dio. In realtà poi si scopre che molto spesso alcune cose che ci venivano dette, non fai questo, non fai quell'altro, hanno dei significati, ma magari non esattamente quelli veri, no? Per esempio, non attrarre l'attenzione, non essere egocentrici, non mostrare quanto sei ricco, eccetera, eccetera. Non è che non si fa perché è brutto, sì, certo, lo è anche perché è volgare o può offendere qualcuno, ma soprattutto perché ti attira l'invidia, no? Ecco perché le persone abbienti vivevano in case che erano chiuse, no? Per esempio nel mondo arabo tutto avveniva all'interno, fuori era il deserto, il povero e il ricco erano uguali da quel punto di vista, era soltanto all'interno della casa che si vedeva lo status sociale di una persona, e anche da noi, insomma, da noi con qualche... No? Poi in realtà ci sono tutti degli apparati, dei parafernalia che vengono messi fuori perché tu a un certo punto rivesti una qualche ruolo di potere, no? Lo devi fare perché è scritto, cioè chi esercita il potere lo manifesta anche nella sua regalità, nel suo essere solenne, no? Non sono solo delle sciocchezze, cioè ora lo sono, ora è tutto un teatrino, no? Quasi dappertutto, ma in realtà in origine questi attributi che noi possiamo leggere in senso antropologico sono qualche cosa che riflettono degli archetipi che si manifestano nelle persone. Quindi quello lì sarà più l'umile, quell'altro sarà più il re, quell'altro sarà più il furbetto e così via. Ho risposto alla tua domanda? Sì, grazie. Figurati. Allora, innanzitutto suggerirei di indagare il proprio cuore per vedere che tipo di, cioè, che cosa lo attrae verso questo mondo, diciamo. Cioè, non importa comunque, cioè, può esserci anche, diciamo, una motivazione cattiva, ma portare a un luogo buono, magari attraverso qualche peripezia in più. Comincerei a informarmi, magari farei, se una persona mi sembra particolarmente interessante o con i piedi per terra, magari gli chiederei che cosa suggerisce di andare a fare in Perù, magari una piccola esperienza in Perù, no? Il che non vuol dire non che in Perù sia meglio, cioè anche lì, anzi lì essendo proprio un business che trasforma villaggi da essere delle favelas a essere dei milionari, è ancora più difficile, no? Però insomma ci sono delle reti, e sono delle reti nascoste, non sono la pubblicità che trovi su Facebook, questo è importante dirlo, ok? Cioè, connaturato con questo cammino c'è una responsabilità di mantenere protetto questo sapere, ok? Per vari motivi, perché ci sono veramente dei brutti ceffi in giro, ci sono le multinazionali del farmaco che sperano di riuscire a trovare la formula perfetta di ayahuasca per brevettarla come hanno fatto estraendo la psilocibina dai funghi e dandola come rimedio allopatico per alcune patologie psichiche, e ci sono quelli che sono in preda al delirio dell'ego spirituale, che pensano di dover tornare qui e curare tutti perché loro sono stati curati, no? Cioè c'è ogni tipo di follia, quindi bisogna muoversi piano piano, bisogna fidarsi delle piante, cominciare a provi interesse per una pianta, cominci a prenderla, la coltivi, la mangi, ti fai dei bagni con questa pianta, eccetera, eccetera. E poi avvengono dei fatti sincronici, una sorta di serendipità botanica, no? Per cui incontri la persona che ti dice: ah, ma sai, sono andato, ah, ma ho incontrato, oppure non c'hai i soldi per partire per il Perù e domani ti arrivano. Cioè, è come se la medicina cominciasse ad agire prima ancora del momento, se tu sei entrato nel suo campo di coscienza o la medicina è entrata nel tuo. E in soldoni, non so chi sia questa persona, ma insomma, se dovessi essere tu, potrei darti un paio di contatti in Perù, per esempio, che tu potresti cominciare a sentire quanto costi, che cosa fai, cominciare a sentire se ti può risuonare questa persona. Personalmente io, senza l'utilizzo dell'ayahuasca, d'estate in Toscana faccio delle diete delle nostre piante. E questo è un lavoro abbastanza interessante e senz'altro sicuro. Diciamo, no? Che io, diciamo, non lo faccio per lavoro, anche se naturalmente mi faccio pagare, naturalmente, perché ho risposto alla tua domanda. Okay, grazie per la domanda, che è molto, molto carina e anche molto complessa. Allora, con le mie parole io potrei dire questo. Allora, noi possediamo, ogni popolo antico possiede delle tecnologie per accedere a degli stati olotropici, degli stati non ordinari della coscienza, ok? Prima ci puoi arrivare con degli shortcut, no? Cioè una volta, due volte. Poi questi salti di coscienza ti fanno vedere ciò che appartiene a quel livello di coscienza, a quell'altro stato della coscienza, no? Quindi tu cominci ad ambientarti in un nuovo stato della coscienza, no? E tu diventi sempre più quello stato della coscienza. Per esempio, se tu entri in samatha o in samadhi per un sacco di tempo, piano piano tu diventi quella cosa, no? E quindi hai accesso a tutte le cose che servono per quella cosa, a un nuovo modo di leggere la realtà intorno a te. E ovviamente, essendo un rapporto di scambio, perlomeno nella dualità, cioè un rapporto di scambio tra te e il fuori, ti trasformi. Cioè, piano piano diventi quello stato di coscienza, e poi un altro, e poi un altro. Questo è il cammino spirituale, cioè quello che viene chiamato ascesi o illuminazione, no? Che non è una cosa che può essere fatta con la mente, cioè ti vai a dormire la sera e alla mattina ti svegli con la stessa mente e sei illuminato perché hai capito tutto. Non è così, cioè sì, può essere successo a qualche bodhisattva o a qualche arant, no? Ma generalmente è un percorso in cui piano piano, prima le piccole cose, poi le cose un po' più grandi, poi le cose, tutto cambia, no? Quindi, non so, un esempio banale, scusa, è veramente banale, però, perdonami. Il ragazzino di 15 anni è attratto dalla ragazzina di 15 anni perché per un motivo, quello più romantico, quello più sessuale, quello più altro. Piano piano, via via che pulisci, via via che vai in altri stati di coscienza, ti rendi conto che sono dei camuffamenti questi filtri che metti, no? E ti rendi conto che la natura del tuo bisogno è altra da quello che pensavi che fosse, però il bisogno c'è, no? Dopo un lavoro molto lungo ti rendi conto che in realtà magari con quella persona di polarità opposta, oppure della stessa polarità, o non so quello che sia, tu puoi fare un lavoro di trasformazione, cioè siete collaboratori e fate esattamente quello che fanno le api, no? Cioè, senza tutte le romanticherie, senza Padre Pio, senza baci Perugina. Ho risposto alla tua domanda? Allora, a questo scopo posso raccontare un piccolo aneddoto che è presente sia nell'induismo che nel buddismo. Allora, a un uomo viene data la possibilità di andare in un giardino a raccogliere tutti i manghi che vuole, mangiarseli tutti nello spazio di un'ora. E allora si avvicina a questo giardino e però parla con il contadino e comincia a dirgli: ah, ma che manghi c'hai? Ma sono grandi, ma sono gialli, ma sono rossi. E si mette a parlare col contadino dei manghi, fino a che, quando è il momento di mangiare i manghi, scopre che l'ora che gli era stata concessa è passata. No? Quindi sì, quindi il desiderio di conoscenza è assolutamente meraviglioso, però può essere anche ingannevole, no? Perché invece l'esperienza ha bisogno dei suoi tempi, questo dal mio modo di vedere, e la coscienza, visto che hai parlato di meccanica quantistica, ha un funzionamento che ancora noi non comprendiamo e che non comprenderemo mai in realtà nella forma di un'equazione o di una spiegazione razionale. Se tu sei sufficientemente libero, libero, veramente libero, da forme del vedere, da forme dell'esperire, paure, giudizi, quando qualche cosa entra nel tuo campo della coscienza, è l'inizio del diventare quella cosa, quindi puoi decidere di respingerlo o di lasciare che questa cosa cresca. La stessa cosa con le piante, la stessa cosa con le divinità. Per esempio, non so se hai mai partecipato a una qualche rito tantrico, no? Quando si beve una dravia e viene invocato un particolare flusso del divino su una determinata persona, no? Che poi non è diverso da nessun'altra forma di sciamanesimo che io ho visto in giro per il mondo. Quindi tu, sufficientemente pulito e adattato attraverso il dravia, incanali un determinato flusso, che è un aspetto del divino, un archetipo, possiamo dire, se vogliamo utilizzare le parole della psicoanalisi, che curiosamente da noi prende sempre la forma della mitologia classica, no? Che è una delle cose più artefatte qui da noi, purtroppo, no? Perché c'è stato questo lavoro di risemantizzazione medievale, poi dopo, no? Mentre invece in India è ancora completamente vivo, cioè, no? E questo è molto importante. Noi abbiamo in effetti molto semplificato il nostro sistema religioso, cioè il nostro Dio è il Padre, il Creatore, poi abbiamo appaltato ai santi o agli angeli o agli arcangeli altri aspetti che invece in India sono assolutamente conviventi, non bisogna lottare perché uno si affermi sull'altro, cioè il divino è uno e via via si diffrange, no? Come una specie di ologramma a cascata, no? E si specifica, e in effetti questa cosa la ritrovi in tutte le tradizioni, no? Nel sistema ebraico la luce dell'Ein Sof viene proiettata attraverso le Sefirot, viene colorata, i colori si mischiano, danno luogo ai colori infiniti della creazione. Bravissimo, esattamente, la luce bianca che poi si colora, prende delle connotazioni, delle colorazioni e dà luogo a tutte le forme. Ecco, tu puoi venerare il divino in ogni forma. Anche il ladro lo fa, anche l'assassino lo fa, non vorrei essere in lui ovviamente, ma in qualche modo lui incarna un archetipo, no? Mi sono ancora chiesto come mai, cosa farà mai Renzi, che archetipo incarna, scusate la battuta sciocca. E quindi sì, è così. E sono interessanti questi riti, perché all'inizio ti sembra di essere un po' in mezzo dei pazzi, ma poi vedi che cosa accade, no? Quando quella persona diventa un determinato aspetto di Lakshmi, piuttosto che, te ne rendi conto, loro lì la chiamano Lakshmi, qui abbiamo altri modi di chiamarlo, e nel mio modo di vedere c'è una unione veramente intima tra il sistema indiano e questo sistema delle piante. Cioè, nel sistema indiano la luce bianca comincia a dividersi prima nelle Trimurti principali, nella polarità la Devi e il Dio, e ognuno di questi poi si rifrange, e poi c'è l'aspetto di Parvati Annapurna, l'aspetto di Gauri, l'aspetto di questo, l'aspetto di... no? E io penso che le piante siano proprio una murti, un aspetto, una ipostasi del divino, che ti si presenta in quella forma lì. E sono migliaia e migliaia e migliaia. Per esempio in Amazzonia ci sono 88.000 specie di piante, contro le 9.000 che ci sono qui da noi in Europa. No? Quasi come il pantheon indù. Interessante. Allora, sì, molti hanno paura del vomito. Ok, pensano che vomitando allora hai avuto un bad trip. No. Aspettavo questa risposta. Ok. Allora, ci possono essere dei momenti di grande sofferenza, proprio di grande sofferenza, come per esempio tu puoi vivere delle regressioni a degli stadi infantili perinatali molto molto brutti, tipo se sei rimasto incastrato nel canale quando sei nato, insomma, più o meno tutto quello che che sperimenti con la respirazione olotropica, per esempio con il rebirthing o questo tipo di tecniche, con l'ayahuasca lo puoi vivere, però in più sei completamente dentro una cosa che può farti paura. No? Puoi vivere dei momenti in cui la tua psiche si frange in mille diversi rivoli e nessuno di questi sa dove sei o nessuno di questi è in grado di vedere fisicamente o trovare l'accendino per muoversi nello spazio. Puoi provare estrema paura, puoi provare addirittura l'esperienza della morte, anche, diciamo, quasi la morte vera, ovviamente non muori, no? Diciamo che la tua coscienza lo vive come una morte, poi in realtà a posteriori scopri che in realtà è una parte di te che è morta, no? E a quel punto, oltre alla sofferenza orrenda che hai vissuto durante la cerimonia, c'è la sofferenza del lutto, che può durare anche molti mesi e a prendere una forma depressiva. E allora bisogna stare attenti a non... cioè, ah cazzo, dopo l'ayahuasca mi sono depresso, allora vado dallo psichiatra che mi dà le benzodiazepine. Non hai capito niente. Cioè, in questo senso qua. Per questo ci vuole una guida. E bisogna, diciamo... No, ci sono altri momenti in cui invece vivi degli stati di... Ma può durare tutto il tempo o è più tipo che un trip... Ah sì, bravo. La parola che utilizzano là è mareation, la mareation sono delle onde che arrivano, la tua coscienza viene investita da queste onde e ovviamente la forza della mareation dipende dalla forza della medicina, chiaramente, e dalla forza della medicina che è nella voce dello sciamano. Ok, quindi uno sciamano con il suo Icaro può alzare la mareation, abbassarla. In che senso? No, diciamo, cioè, gli scambi di energie che avvengono durante una mareation possono essere benefici o malefici, no? È lo soggettivo, in realtà poi sono l'idea del bene e del male, nel senso che l'esperienza è quanto tale, giudicarla... Certo, allora sì, se sei sicuro di essere con una con qualcuno che è competente, cioè che non ti lascia... essere aggredito da qualche entità o dai pensieri di merda che sono usciti da lui, no? E stai facendo un lavoro che è sano, che è strutturato bene, il set e il setting della cosa sono buoni, non può esistere un bad trip a posteriori. Il tuo bad trip è stato un passo verso la via della comprensione e della liberazione, certamente sì. Però se dopo una settimana fai delle sciocchezze, per esempio, per prepararsi a una cerimonia di ayahuasca non bisogna fare determinate cose, così come non le si fanno in dieta, per esempio, no carne di maiale, no carne di manzo, no alcol, ok? Se tu invece, dopo la cosa dici, ah, festeggiavo con una birretta, no? In effetti c'è una mia amica che è una curandera italiana molto forte, e la maggior parte del suo lavoro è risistemare questi poveretti che hanno fatto male le cose. Come no? Altro che, altro che. Anzi, per lo più è così. Per lo più è così, a meno che non sei, cioè, il nipote di Hitler che porti un karma pesantissimo, no? Puoi stare molto male parecchie volte, non lo so. Ammetto, io nella mia vita, non so, avrò fatto 200 cerimonie. Posso dire che 3, 4, 5 sono state allucinanti, nel senso negativo, se si può dire così. Ma sono anche state quelle poi più interessanti, no? Dal punto di vista del risultato sulla tua vita, no? Perché sono proprio morte delle parti, cioè l'indomani non c'erano più, no? Che è una cosa che fa anche spavento, cioè molte persone che mi chiedono dicono, ma io non voglio cambiare tutto, no, vabbè, calma, vabbè. Tra l'altro un'altra cosa divertente, quando ti avvicini a una cerimonia ti dicono, metti il tuo intento nel bicchierino, no? Benissimo, il potere dell'intenzione è fondamentale, no? Però in realtà la medicina ti dà quello che ti serve, punto. Quindi, ma perché non mi ha tolto il lupus che ho sulla schiena? Ma magari ti ha tolto i peccati che pesavano su di te di tuo nonno, nel senso di schemi transpersonali, epigenetici, che ti sei beccato da un passato molto difficile. Aiuto, 45, 6, perché? No, perché. Beh, considera che... Io... Beh, quando sei là, puoi fare anche 2-3 cerimonie alla settimana. E ti assicuro che dopo 2 mesi che lo fai, preferisci andare a mangiare dei ravioli. Parliamone. Ok, Allora, questa è una domanda molto interessante, ma anche molto complessa. Molto complessa. Allora, innanzitutto, non è proprio vero che l'LSD è sintetico, cioè quello che usi tu o lei o io, sì, lo è, no? Però questo è un sale dell'acido lisergico che era contenuto nella segale cornuta, cioè in particolare nel Claviceps purpureo, cioè nel funghetto che cresce su alcuni tipi di segale, e che veniva chiamato ergot, a seconda, e che dava luogo a quegli episodi di isteria collettiva, popola l'immaginario dei sabba, delle streghe, del medioevo, eccetera, eccetera. Noi non sappiamo esattamente come funzionasse l'uso, diciamo, protocollare di questa sostanza all'epoca, no? Poi sappiamo che grazie a Hoffman è stato risintetizzato e utilizzato come medicina all'inizio. Groff stesso era uno che si occupava di questo, no? E allora, se vuoi chiedere la mia esperienza, io ho provato l'LSD mangiato così parecchi anni fa, una bella esperienza, ma mai più lo rifarei, no? Perché quello che è cambiato in me è proprio questo, cioè non mi interessa raggiungere degli stati della coscienza per farmi un viaggio, no? Cioè devi lavorare su di te, questo lavoro con le piante è un lavoro su di te, è una cosa faticosa. Non è andare al cinema, e secondo me l'LSD, mentre su alcune persone sarebbe assolutamente indicato, per esempio mescere un po' di LSD nei bicchieri in Parlamento farebbe senz'altro del bene per un po', no? Perché comunque scompagina il tuo modo di affrontare la realtà, le tue relazioni energetiche con il mondo, ristruttura i tuoi desideri. Amore, è finito, Gioia. Io penso che se tu sei interessato all'LSD come sostanza dovresti andare a recuperare la tradizione che ne faceva uso prima di Hoffman. Io sono convinto che sia qualcosa che è rimasto conosciuto in alcuni ambienti esoterici, ma il problema dell'esoterismo nei paesi occidentali è che è qualcosa di molto intellettuale. e molto poco pratico, cioè. Quindi o vai, non so, al Landa della Westfalia e trovi una vecchia strega tedesca e le chiedi come si usava l'ergot, oppure puoi leggere i libri di Samorini o miliardi di altri e sperare di trovare qualche informazione. A parte che 12 ore mai più. Cioè. Dipende, dipende, generalmente 4, 5, 6, 7, dipende appunto dalla forza del canto, dipende dalla forza della medicina. Sì, sì, no, ma che faccia del bene, vabbè, è ampiamente documentato da tutto il lavoro che fu fatto negli anni dopo la scoperta, no? E che poi dopo l'episodio Liri fu completamente bloccato in tutto il mondo. Anche, cioè, ti manda in uno stato modificato della coscienza, parecchio modificato, se posso permettermi di dire, non sempre facilmente controllabile, ma la cosa che mi preme di dire è che non c'è una storia, una tradizione di questa cosa, cioè se non questa piccola storia recente, per cui bisogna tenere conto di questo aspetto, a mio modo di vedere. Anche il modo di procurarsi queste sostanze la dice lunga, no? Cioè, quando sei in Perù, per cucinare l'ayahuasca, vai, raccogli chili della liana, parli con il contadino, gli dai due galline, lui ti dà 70 chili di quello, vai alle 5 della mattina a raccogliere le foglie di Psicotria viridis o di Wambisa o quello che è, cucini per 3 giorni a 50 gradi con queste fiamme della Madonna, e cucini, e cucini, e cucini, e fai 70 litri di questo liquido, poi lo riduci, lo riduci, lo riduci, alla fine hai 3 litri di ayahuasca dopo 3 giorni di lavoro, no? E tu in quei, e hai cantato, hai dato la tua forza alla medicina, e sei completamente stremato, ma la tua connessione con la medicina è molto forte. Infatti c'è una grande differenza tra usare la medicina che ha cucinato qualcun altro e quella che hai cucinato tu stesso. C'è un legame molto forte, la controlli molto di più, no? Per esempio, quando io conduco una cerimonia, la mia medicina risponde quando la bevono gli altri in un modo che è completamente diverso da quando bevono loro quella che portano, che è la qualunque, per dire, no? Quindi il rapporto con la pianta si crea, tu che vai nella foresta, accarezzi la pianta, la metti a posto, la tagli, ne pianti un pezzo da un'altra parte, la diffondi, perché questo è importante, no? Per esempio con la ayahuasca c'è questo atteggiamento predatorio, tutti la vogliono raccogliere per venderla agli occidentali che la pagano 700 euro al letto o non so che cosa, e nessuno la ripianta. Per esempio in Colombia è un problema molto grave la penuria, la scarsità di Banisteriopsis capi nei boschi, nelle foreste, perché tutti hanno preso e nessuno ha ripiantato. No? Perché questi qua fanno le cerimonie, si fanno pagare 3.000 dollari così e poi comprano il SUV e non reinvestono nel piantare della nuova ayahuasca, e questo è fondamentale invece. Ovviamente io lo farei qua, ma mi arrestano. Sì, allora sì, anche questa domanda è molto, molto interessante. Allora, io ne ho sentite di tutti i colori. Allora, normalmente viene detto che chi ha delle patologie, alcuni tipi di patologie particolarmente gravi, per esempio una enorme ipertensione arteriosa, oppure dei problemi cardiaci veramente importanti, o dei problemi psichiatrici tipo ciclotimia o schizofrenia grave. Però se tu parli con un... E questo è il protocollo di accettazione dei pazienti da parte di chi, secondo me, non ha una vera connessione con la medicina. Cioè, è possibile che qualcuno muoia, non è documentato. Cioè, che io sappia, l'unica persona che è morta con la ayahuasca è stato un cretino in Ecuador, che è stato lasciato andare da solo nella foresta ed è affogato nel lago. Ok? Boh. Ci sono un paio di altre persone che sono morte di spavento. Però erano delle persone molto anziane, ok? Quindi lo spavento, infatti per esempio questo è uno dei motivi per cui alcuni nativi che hanno perduto l'uso dell'ayahuasca a furia di essere cristianizzati, occidentalizzati, eccetera, eccetera, adesso hanno paura. Dicono, ah no, ma io non voglio bere l'ayahuasca perché poi vedo gli spiriti cattivi. No? Hanno paura di vedere i diavoli. No? E, allora, io direi soltanto delle patologie cardiache, gravi. A livello psicologico starei attento con dei casi di schizofrenia molto molto grave, perché tu... No, assolutamente, secondo me è indicato per tutti. Tra l'altro può accadere, io l'ho visto accadere, una persona beve l'ayahuasca e la pianta gli dice, guarda che tu sei a posto, per esempio, o la tua strada è un'altra. Sì, può succedere, può accadere. O un'altra pianta, o proprio un'altra cosa, o un'altra cosa. Nel corso delle cerimonie possono avvenire delle canalizzazioni, o comunque possono anche avvenire che uno dice delle cazzate, per cui bisogna stare molto attenti anche, infatti si sta in silenzio per lo più, o si parla, si bisbiglia, perché qualunque contenuto, tu non sai il tuo vicino di cerimonia in che fase è, no? Magari una piccola cosa gli può scatenare una cosa, poi va sempre bene, ma... Deve avvenire in un ambito dove qualcuno ti può tranquillizzare, sia fisicamente, cioè io canto e ti abbasso la mareación, okay? Oppure fisicamente ti do delle sostanze, del limone per esempio, della cipolla, che cortano l'effetto, cortar, tagliare. Però ragazzi, se posso permettermi, lavorare con la changa, se si può parlare di lavoro, innanzitutto non è una medicina che hai prodotto tu stesso. Non sai da dove arriva, non sai con che intento è stata prodotta, come è arrivata fino a te, chi l'ha fatta, esatto, con quale intento, se non quello di... No? Poi, tendenzialmente, estrarre non è un buon lavoro, generalmente. Vedi la cocaina, vedi l'eroina, no? Quindi, se il Signore ha messo la DMT dentro la pianta, ci sarà un motivo che lo devi prendere con quella pianta. No? Cioè la coca è una pianta maestra allucinante, ci sono un sacco di tribù amazzoniche che la loro pianta principale è la coca, per esempio i Tucano, no? Hanno questa medicina che si chiama Mambè, che è fatta di coca, foglie di coca pestate, ma è una trasformazione alchemica, intanto avviene in un mortaio e in un pestello fatti di palosangre, che è un albero dalla linfa rossastra, e viene pestato così, quindi imita un po' il coito in qualche maniera, no? E le foglie vengono ridotte in polvere finissima, mescolate con la cenere che viene buttata a un certo punto, questa cenere bianca che assomiglia all'emissione spermatica all'interno dell'utero, quindi tutto ha una sua valenza, no? Poi la polvere viene raccolta e tenuta in una bisaccia alla cintura, e gli uomini, anche le donne, vanno in giro con il mambè assorbe parte dell'energia della persona, quindi quando le persone si incontrano si scambiano il mambè. Così io so se tu sei malintenzionato o benintenzionato, perché le piante hanno anche questo potere di essere programmate, così come l'acqua, come il tabacco, come l'alcol, ok? Possono essere programmate e veicolare dell'informazione. L'omeopatia, per esempio, ancorché considerata una pseudoscienza, in realtà funziona proprio così, veicola informazioni sottili. Al punto che se tu hai una diluizione dove non c'è più neanche una molecola del principio attivo, tuttavia è efficace ugualmente, anzi più è diluita più è efficace, in genere. Queste sono un po' le vestigia della scienza sacra che sono rimaste nel nostro sistema, un pochino così. E ecco, quindi la coca, c'è bisogno della planta tota e di un modo alchemico di trasformarla che sia rispettoso, sia dal punto di vista... medico, diciamo, sia dal punto di vista spirituale, sia dal punto di vista della tradizione. Quindi ecco, attenzione a usare sostanze così, no? Ce ne sono tante, bellissime, dove esiste una tradizione, quindi non potrai mai fare una cappellata, perché c'è qualcuno che ti ha insegnato a usarle. Anche l'erba, cioè banalmente l'erba, è una pianta potentissima. però devi un po' uscire dal bisogno, dal ah sì, sono abituato, lo faccio tutti i giorni, capito? Certo. Beh, possono essere varie modificazioni del set e del setting di assunzione, per esempio, no? Non so, banalmente, hai mangiato particolarmente bene nei giorni precedenti a una determinata cosa o sono avvenute delle cose... Esattamente. Quindi è possibile che, diciamo, lo spirito della marijuana ha trovato dentro di te un ambiente suscettibile di avere una reazione diversa dal solito, perché tu offrivi un terreno diverso. Questo è molto importante, facendo cerimonie ce ne si accorge, no? Tipo arriva quello, può succedere, no? Cioè la gente che mangia il caprone arrosto il giorno prima arriva, sbocca tutto e dice ah che bella la ayahuasca, no? Invece sono persone che stanno 2 mesi a mangiare solo 3 chicchi di riso perché vogliono arrivare perfetti, ed è un'esperienza completamente diversa. Bravissimo, quella è stata la preparazione perfetta. E tu invece riesci a ricostruire? Ne dubito, ti sta dando senz'altro un segnale, ma io vedo che qua siete in tanti ad aver avuto esperienze con la marijuana. Allora, a questo punto io consiglierei una dieta di marijuana, no? Cioè dietare la pianta marijuana come si dieta un'altra pianta. Quindi facendo degli infusi, adesso insomma bisogna vedere qualcuno che lo ha fatto, per recuperare, ecco, già quello è un lavoro di tipo trasformativo e alchemico. O coltivarsela o farla coltivare a qualcuno che è bravo, che è affidabile, sì. Assolutamente, infatti, senza delle schifezze allucinanti. Poi le piante davvero trattengono informazione, no? Quindi è finito nel culo di uno che... No, vai. Ecco perché esistono delle tradizioni, perché la tradizione ti guida prima che tu abbia la conoscenza, e questo è molto importante. Per esempio, chiedi al maestro, oh, maestro, perché non posso fumare la canna dopo l'ayahuasca, metti? E lui ti dice... Sono 2 spiriti femminili molto importanti. Tu usciresti con 2 donne contemporaneamente e la tua vita diventa un inferno. Adesso, questa ovviamente è un aneddoto un po' sciocco, ma ci sono... No, assolutamente no. Ci sono delle piante che vanno bene insieme. Per esempio, la brugmansia, che è la mia pianta di potere, va perfettamente con l'ayahuasca. Non c'è nessun tipo di problema per me. Tu... probabilmente se la prendessi così vai fuori di testa per 3 giorni. Nella somma delle due così ex abrupto, cioè senza una preparazione, ovviamente se fai il percorso che ho fatto io, probabilmente anche tu lo puoi fare tranquillamente. Esatto. Poi ci sono delle gerarchie di piante. Quando cominci a diventare un po' sensibile ti rendi conto che se tu assumi o dieti un grande palo, cioè un grande albero e un arbusto o un'erba, ci sono dei rapporti gerarchici, no? Per esempio, quando cominci a vedere gli spiriti delle piante, cioè loro si presentano a te in una forma grafica o perlomeno decifrabile, proprio avvengono delle cose incredibili. Per esempio, lo spirito della pianta più piccola si mette ai piedi dell'albero e loro ti insegnano insieme, ma con una gerarchia, no? Vabbè, però qua stiamo entrando proprio, insomma, nello spirito della materia specifica, e assolutamente per questo ci vuole qualcuno a cui dire: guarda che io sto prendendo questo, va bene, no? Allora uno può avere una conoscenza medicale e dirti no, quello lì non va senz'altro bene, oppure un maestro serio fa una cerimonia da solo e dice oh, domani arriva sta qua, vuole arrivare sta qua che prende il triapazepam, non lo so, va bene o non va bene? E poi ti risponde se è una persona seria, oppure è una persona che ha già dei protocolli e sa, ha già avuto esperienza. Per esempio ci sono dei centri in Perù che sono molto seri, molto costosi in verità, ma almeno non ti fai del male, il lavoro viene fatto tradizionalmente. In genere la tradizione più rinomata è quella degli Shipibo Conibo, che sono una etnia della galassia Pano, e loro sono considerati i depositari della, insomma, della tecnica più giusta, più austera, no? Meno spuria perlomeno. E se vai in uno di questi centri, loro sanno dirti questa medicina sì, questa medicina no, perché hanno proprio un'esperienza. Bravissima, esattamente, esattamente. Certo, assolutamente. Bene, bene, bravi. Vedo che siete tutti vegetalisti in erba. No, interessante il nome che ha dato alla sua associazione, Chacruna. La Chacruna è la Psicotria viridis, che è l'altra pianta che classicamente viene cotta insieme alla Banisteriopsis capi. Sì. Sì, sì, sì. Bello, fico. Prego. Ah, bellissimo, certo. Allora, possono esserci delle predisposizioni naturali. Per esempio, a me è capitato di tutto. Una persona che viene da me mi dice: ma senti, dopo che ho sentito parlare di queste cose, io mi ricordo che da tutta la vita c'è la rosa. Mi ricordo il miracolo della rosa in chiesa, non so che... Cioè, comunque sta rosa è sempre presente. Boh, interessante, proviamo a vedere. Ottimo, sei fortunato. La rosa è un fiore straordinario. E poi appunto puoi chiedere se intendi dietare questa pianta o lavorare con questa pianta, ovviamente sotto l'egida di un curandero. Lui farà una cerimonia, non necessariamente, no, ci sono anche delle persone in gamba qua, ma bisogna trovarle, e lui farà una cerimonia e vedrà se la rosa va bene per te, se c'è affinità, oppure se magari non è il momento di cominciare con un'altra cosa, magari, non so, una pianta di più di luce, come una altaruna o una pianta di pulizia prima, che non una pianta di apertura del cuore, perché se tu sei molto sporco e apri il cuore di botto, poi magari succedono dei patatrac, infatti molto... E poi dopo che cominci il percorso con le piante, per intuizione, per sogno, per visione o quello che vuoi, arrivano altre, cioè una pianta ti indica l'altra, no? Scusa? Per lo più in sogno ti rendi conto che c'è proprio una qualità del sogno che è diversa, la stessa qualità che è stata codificata dalla psicoanalisi, no? Quando un sogno porta un'informazione e non è semplicemente lo sgorgamento del catabolismo psichico che di solito avviene di notte, no? E ti rendi conto che il sogno è significativo, perché è diverso, te lo ricordi vividamente, quindi è chiaramente un messaggio. Ora, chiaramente devi capire se è un messaggio buono, cattivo, insomma c'è un po' di lavoro, non è come ricevere una lettera da un medico. Sì, assolutamente, è un argomento enorme. Che ore sono? Scusate. Ok, io tra pochino mi sa che... Allora, è un argomento immenso perché si configura in tantissimi modi. Allora, chiaramente le api possono fare il miele di qualche cosa. Tu mangiando quel miele ti avvicini. Esistono addirittura, Samorini ne parla, dei mieli psicoattivi, perché sono stati, esatto, pollinati su delle piante che contengono alcaloidi di un certo tipo. Bravissima, esatto. Cioè, immagino che ovunque ci siano piante psichedeliche, dove il fiore è psichedelico, ci siano questo tipo di cose. Aspetta, andiamo per gradi. E nel mondo della magia esiste un principio analogico, no? Per cui se tu vuoi acquisire o entrare in contatto con un determinato aspetto che è rappresentato da quel particolare animale, tu puoi mangiarlo, ok? Cioè, sì, mangiarne alcune parti o entrare in contatto con l'animale in qualche modo, portarne la pelle, no? in modi anche assolutamente orribili e cruenti. Alcuni sciamanesimi africani, per esempio, funzionano assolutamente così. Non c'è assolutamente niente di... cioè, per la nostra anima bella che vive nella città è inconcepibile, ma insomma gli animali possono essere uccisi, no? cioè, oh. No. Ah, intendevi tu col tuo cane? Ma molte persone vedono, riescono a parlare con i loro cani in alcuni stati modificati della coscienza, con i loro animali. Soprattutto i gatti, in verità. Soprattutto i gatti. Ma di riuscire ad avere un contatto, a parlarci, adesso passatemi il termine, no? O a rendersi conto, per esempio, della loro funzione, no? Io, un'esperienza che mi è capitata tante volte, mi hanno raccontato, ah, ma io nella cerimonia ho visto che il gatto sta lì apposta per proteggermi da quella cosa. Oppure, ah, ho visto che il mio gatto è morto, adesso vi racconto una mia cosa personale, però non ridete, per favore, non diffondetela. L'anno scorso, nel corso di una cerimonia terrificante in Perù con il mio maestro, siamo stati attaccati da altri maestros cattivi, ok? Questo è un aspetto di cui non volevo parlarvi, ma ora è emerso, no? E il mondo spirituale laggiù, come senz'altro sa chi ha letto i libri di Gorman, per esempio, no? È abbastanza sporco, le persone ti odiano, non è che ti fanno causa. No, vanno da un fattucchiero, da un bruco e ti fanno fare una fattura o qualche cosa, no? Poi sono molto gelosi, il loro modo non è gli buco la gomma dell'auto, che non c'è nella foresta, no? Ma è ti mando la sfiga della Madonna. E, insomma, siamo stati attaccati brutalmente da questi stronzi, scusate, che tra l'altro erano persone con le quali abbiamo lavorato in passato, ed è stata una cosa veramente orribile, cioè, non posso dirvi, quando parlavamo delle cose orribili, questa è stata proprio ancora di più. E comunque in qualche modo ce la siamo sfangata, e il mio maestro è molto potente, per fortuna è stato in grado di proteggere lo spazio, e la cosa in... Lo svizzero, il tuo maestro? Sì, lo svizzero. E, insomma, io ho visto chiaramente che un'entità nera, ma amica, in qualche modo si è lanciata in mezzo a questa baruffa e ha scacciato, insomma, risolto. Infatti poi piano piano il canto del maestro è ritornato normale, siamo ridiscesi tutto, e abbiamo visto che cosa era accaduto, cioè l'attacco di queste due persone. L'indomani o dopo due giorni mi chiama lui e mi dice: ah, ma sai che un gatto è morto, nero, dei miei gatti. Ora, va bene, prendetela con le pinze veramente, cioè, però questa è una mia piccola esperienza che mi andava di condividere. È come se si fosse sacrificato, cioè è morto esattamente in quel momento, a migliaia di chilometri di distanza, e non era particolarmente né vecchio né problematico, insomma non era un giovancello, ma sì, ok, ma non lo so, magari ho detto una cazzata, assolutamente. E poi loro vedono delle cose che noi con la vista normale non vediamo, non so, mi è mai capitato di vedere il cane o il gatto in fissa da qualche parte, cioè, soprattutto nei muri, gli angoli o nelle porte, stanno lì e fissano, fanno la guardia di cose che noi non riusciamo a vedere, lo so, però speriamo che queste cose bisogna dirle veramente con il contagocce, perché sennò ti portano alla neuro, cioè. E questo è uno dei motivi per cui questo tipo di sapere va protetto, non è per tutti, capite, no? Se andassimo nella strada a dire: ah, il mio gatto si è sacrificato per me, tipo il gufo di Harry Potter, ti portano alla neuro o ti querelano o peggio, no? Quindi attenzione. Grazie a voi ragazzi, e posso dirvi particolarmente, è stata la prima volta che insomma che parlo di queste cose con un gruppo di giovani che hanno esperienza di piante e hanno questo tipo di interessi, ed è stato veramente una delle esperienze più divertenti, più arricchenti, quindi vi ringrazio davvero, grazie mille.